Luca Genovese è un fumettista di ventennale esperienza, l'abbiamo visto... Dai, è vero, no? Vabbè, sì, prendiamo la larga. Ti abbiamo visto appunto su Dylan Dog, con appunto Bonelli Editore, Becco Giallo, tante altre opere. Hai anche una pagina Wikipedia, quindi direi che questo testimonia la tua esperienza. È stata una sorpresa anche per me, in effetti. Ecco, e appunto hai prestato la matita appunto in questa graphic novel che appunto uscirà domani. Bebo prima ci ha detto che vi siete conosciuti al bar, è vero o è una fake news? No, è assolutamente vero, sì. Quindi non ci eravamo dati appuntamento, ma ci siamo trovati lì perché abbiamo amici in comune, cioè, quindi è stato un po' un caso, però ci siamo fatti questi paio di spritz e birrette, abbiamo capito. E così appunto è nata l'opera, da una sceneggiatura che aveva nel cassetto Bebo. E com'è stato lavorarci? Io avevo proprio voglia di lavorare in questo modo per questo libro. Quando mi è stato detto hai carta bianca dall'editore, comunque anche quando mi è stato proposto, cioè quando Bebo mi ha proposto di farlo, volevo più che altro adattare un testo, cercando di renderlo un po' ibrido, con un ibrido da fumetto e romanzo di prosa, però non che fosse un romanzo illustrato, nemmeno un fumetto to court. Quindi niente, quando mi ha fatto leggere la sceneggiatura mi è piaciuta, sceneggiatura più che altro è un soggetto, l'ho trovato interessante, cioè, ci vedevo delle cose che avevo voglia di disegnare, che è un po' quella la cosa che ti fa iniziare un progetto di solito, almeno per me. E poi niente, ma è stato un definire assieme la scaletta, almeno di cosa doveva succedere, e poi lui ha cominciato a scrivere pagine di testo, con dialoghi, ma senza una sceneggiatura vera e propria di quella classica, insomma, con cui ho lavorato, tipo vignetta 1, pagina 1 e cose del genere. È andato via un po' alla cinematografica, diciamo. E io poi ho tagliuzzato, rimontato, ho fatto un po' un lavoro di taglia, copia e incolla e riadatta, ho trasformato alcune sue parole in immagini, altre le ho lasciate direttamente così, anche proprio come battute, una cascata di testi. È stato un po' un divertimento, cioè, volevo sperimentare questo linguaggio un po' così, e mi sembra che sia riuscito. E appunto adesso noi non lo possiamo sapere, ma lo scopriremo presto quando avremo il libro, ovviamente. Però quindi insomma sei stato molto libero, non ti ha pesato quello che oramai in Italia è diventato lo stato sociale? In realtà un po' sì, perché quando abbiamo iniziato a lavorarci ormai un anno e mezzo fa, le prime tavole di prova, insomma, per capire un po' qual era il, anche per spiegarmi io, perché questa cosa che ti ho detto adesso gliel'ho spiegata a voce, non ci aveva capito niente come buona parte delle persone a cui l'ho spiegato, e poi l'ho dovuto far vedere su carta che cosa intendevo, però sì, non sapevo niente. Poi di colpo appunto, tra l'altro andiamo a Sanremo, poi tra l'altro niente, si è arrivati secondi e quindi niente, è stato un po', io come dire, accuso molto, avevo paura di essere esposto, diciamo, perché non, sono un po' un orso da caverna, quindi però sì, non so che dire, io ho lavorato comunque così molto, molto serenamente con Bebo, quindi non mi ha pesato nella lavorazione. Ora vediamo con le presentazioni e tutto cosa succederà. Sarai anche tu in giro per le presentazioni? Sì, certo. Certo, poi ovviamente... Il nome in copertina, un po' ci terrei anch'io. Insomma, è giusto. No, era una domanda del cazzo, scusa. No, tranquillo. No, però insomma, noi siamo abituati, perché come sai i Ragaz, come dire, hanno bazzicato a lungo in questa radio, quindi immaginiamo che... Anch'io, anni fa. Sì. Ecco, vedi, allora insomma, è tutta una grande famiglia, quindi non faccio fatica a immaginare che in realtà al di là del nome dietro questa band ci sia un rapporto veramente tranquillo, ecco. Ma che poi è quello poi di base che ci ha fatto lavorare, perché comunque se ci stavamo sul cazzo sicuramente non si iniziava a fare niente, quindi ci siamo piaciuti e abbiamo iniziato a fare questa cosa. Poi è sempre il lato umano poi che ti porta poi a iniziare a fare qualcosa, insomma, se no non funzionerebbe. Faccio una domanda, un'altra domanda abbastanza fastidiosa, immagino, per i fumettisti. E cioè, quanto di Bologna ti ha ispirato nei disegni? Dici dell'ambientazione, sì, o sì, sì. L'aria che si respira o cosa? No, nell'ambientazione, sì. Io non, per questa volta, visto che comunque mi è capitato di fare fumetti con riferimenti fotografici, l'avevo già fatto anche un Orfani ambientato a Bologna, tutto quanto super riconoscibile con riferimenti fotografici. Stavolta penso che di riconoscibile al massimo ci sono le torri che si vedono, perché per il resto io sono andato molto libero con un'architettura anche un po' anonima, però si voleva stare un po' sulla periferia, appunto raccontare ho raccontato un po' come immagini, sono andato molto libero, non mi sono basato su particolari riferimenti reali, a parte appunto il bar dove Andrea nell'interno è inventato, ma l'esterno è un posto che conosco, e anche altri piccoli scorci li ho un po' fatti a memoria, perché comunque vivo qui da un po' di anni e un po' a memoria ci vado. Certo. Però sì, l'ho un po' trattata così, trattata molto libera, non volevo che fosse sfacciatamente subito Bologna, comunque mi hanno detto che si riconosce, ci metti dei portici, insomma hai giocato facile.